Radio Popolare presenta La Caccia, caccia l'ideologico quotidiano a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buonasera, l'indice prevede parlare di esorcismi, degli imprenditori del male, del paese reale e di riquadri. Vai veloce.